la versione di Oscar Giannino. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, e sono le 16.32, primi 5 secondi, quindi diretta dagli studi di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia, vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. E in questo mercoledì 3 di giugno vi chiede di intervenire dicendovi la vostra, dicendoci la vostra opinione all'800240024 o con gli sms 349-238-6666 su il tema della trasmissione, che si sintetizza in una domanda. Siccome il ministro Poletti questa mane ha oramai ufficialmente confermato che l'intenzione del governo, lo era già del PD, ma insomma questa volta è ufficiale, del governo, è quella di procedere entro pochi mesi, nell'autunno, a rimettere mano all'età pensionabile, quindi a cambiare strutturalmente l'età pensionabile della legge Fornero. Sapete, la riforma Fornero quest'anno indica 66 anni e qualche mese l'età pensionabile. L'età pensionabile della legge Fornero è stata significativamente innalzata verso un percorso di convergenza delle vecchie pensioni di vecchiaia e anzianità, ancorata all'attesa di vita, quindi con coefficienti automatici che lo fanno scattare di anno in anno. Il ministro Poletti ha confermato stamane quello che già si sapeva dalle cronache politiche, e cioè che il governo è deciso a farlo. Ha parlato della necessità di farlo per staffetta generazionale, per fare spazio tra gli occupati ai giovani. Nel PD, ma non solo nel PD, visto che a voler cambiare questo meccanismo della legge Fornero sono in realtà tutta l'opposizione, dalla Lega, Fratelli d'Italia e così via. Nel Parlamento ci sarà solo l'imbarazzo della scelta di quale strada scegliere. Vi chiedo, voi siete favorevoli? Però la mia domanda è, diteci chi paga. Diteci chi paga, perché in realtà mi pare che nessuno, almeno che io conosca, è favorevole a cambiare l'età pensionabile, cioè a riabbassarla, davvero garantendo che il bilancio di questa operazione sia invariato rispetto all'attuale conto previdenziale italiano. E allora la mia domanda diventa, diteci chi paga, cioè secondo voi, se siete favorevoli, chi li deve pagare gli aggravi, quanto gravi devono essere? Allora vi faccio un esempio. Cesare Damiano, l'onorevole Cesare Damiano, presidente di commissione parlamentare, che da sempre lavora esplicitamente all'ipotesi di modificare i tetti di età previdenziale previsti dalla legge Fornero, e che via via nel tempo ha modificato le condizioni che secondo lui sono quelle a cui ancorare un nuovo diritto al prepensionamento, oggi parla di anticipare da 66 anni a rotti mesi a 62 anni l'età pensionabile in presenza, dice, di 35 anni di contributi. E di fronte alla mia domanda, cioè ma lo fai con una diminuzione dell'assegno tale per cui, facendo il conto attuariale negli anni a venire, questa scelta viene consentita rinunciando a un certo tot dell'assegno, tale da non far aggravare il conto previdenziale complessivo del pensionando, del prepensionando? La sua risposta è no, caro Giannino, perché dovrei mettere in conto diminuzione di assegni anche superiori al 20%, e io non voglio andare oltre l'8%, quindi la differenza diventa un deficit aggiuntivo. Io ricordo a tutti coloro che sono in ascolto, l'ho ricordato anche ieri sera in un dibattito televisivo dove c'era Landini, che nel bilancio INPS del 2014 l'INPS regge con perdite tra i 5 e i 6 miliardi di euro anche quest'anno, e saranno oltre 30 miliardi di perdita in conto economico in 5 anni di seguito, da che è avvenuta l'unificazione con le pensioni pubbliche dell'INPDAP, regge con poco meno di 90 miliardi, 89 miliardi e rotti di contributo dalla fiscalità generale. Per correttezza, siccome i sindacati sempre mi dicono non puoi fare questa cifra perché l'INPS non si occupa solo di previdenza e di assistenza, giustissimo, bene, rispetto ai 6 punti di PIL che già ogni anno vengono dalle tasse generali rispetto ai contributi raccolti, se leviamo tutta l'assistenza e gli ammortizzatori sociali, restano comunque circa 2 punti di PIL di deficit previdenziale, rigorosamente ristretto al perimetro previdenziale, cioè circa 30 miliardi di euro. Se lo aggraviamo, chi paga? È la mia domanda. Facciamo pagare ancora di più contributi ai giovani che se lo scordano di andare in pensione a quest'età quando saranno vecchi e non hanno continuità contributiva oggi? Mi si dice che questa non è un'obiezione valida, perché bisogna reperire le risorse altrove, non da più tasse, non da più contributi. Allora, per esempio, sabato ai Conti della Belva avete sentito il segretario generale aggiunto della UIL, Domenico Proietti, dire: caro Giannino, tagliamo le municipalizzate e di là prendiamo le risorse. Magari molti di voi sono favorevoli, figuratevi se io devo essere convinto a tagliare le municipalizzate, lo chiedo da anni, però la mia opinione è che i tagli generali di spese in altri comparti ci devono essere per diminuire la pressione fiscale generale, non per spostare da voce di spesa a voce di spesa, ma capisco che magari sono in minoranza io. Quello che non capisco però è sottovalutare come l'equità tra generazioni continui a essere l'araba fenice delle pensioni. Tutti pensano a chi è più avanti con gli anni e ha un lavoro, e secondo me troppo pochi pensano a chi della riforma Fornero, e secondo me come è giusto, pagherà il costo, perché bisogna cambiare il sistema. Però una cosa diversa è addossare i costi solo a chi subisce gli effetti pieni della riforma Fornero, altro conto è continuare ad agevolare chi in realtà col regime precedente ha un'agevolazione rispetto al regime che viene dopo. Io non colpevolizzo i pensionati, fine della mia introduzione, poi vi presento l'ospite che è un esperto di pensioni vero, non come me che in realtà legge solo le cifre generali dei bilanci. Non colpevolizzo i pensionati che hanno maturato pensioni legittimamente nel regime precedente, però credo che quando si tratta di mettere per l'ennesima mano volta alle pensioni non possiamo solo pensare a chi deve andare in pensione prima, ma dobbiamo anche pensare che in un sistema a ripartizione le pensioni attuali vengono pagate da chi versa i contributi oggi. E allora la mia opinione resta quella di un ricalcolo generale col contributivo di chi ha la pensione retributiva, non per tagliare tutto l'eccesso, che sarebbe la guerra civile, guerra sociale e ingiusto, ma per quei tipi di trattamenti che sono multipli, troppe volte multipli rispetto ai contributi versati, di immaginare un intervento, e quando dico multipli voglio dire 3, 4, 5, 6, 7 volte rispetto ai contributi versati. Ecco, mi chiedo se non sia giusto. Non ho alcuna fiducia che la politica lo farà, perché la politica pensa che quelli siano voti persi, e invece naturalmente i giovani beccano tutto. Questo è il mio grande timore, ora che è ufficiale che si metterà mano al meccanismo. Allora, l'ospite per parlarle meglio, in attesa di sentire le vostre telefonate, se siete sfegatatamente favorevoli a diminuire l'età pensionabile, però ditemi secondo voi chi deve pagare e come per gli aggravi che inevitabilmente si determineranno, è diciamo uno dei grandi esperti storici di welfare e previdenza nel nostro paese, che è tornato a fare l'osservatore perché aveva fatto anche politica nella vita, cioè Giuliano Cazzola. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Giuliano. Buon pomeriggio anche a lei e agli ascoltatori. Guardi, io penso che la proposta di introdurre flessibilità nel pensionamento che sta andando per la maggiore adesso sia una grande mistificazione, e delle proposte di Damiano penso più o meno la cosa, con tutto il rispetto e l'amicizia per Damiano, che il ragioniere Fantozzi pensava della corazzata potente. Ahia. E quindi siamo voluto proprio mettere le carte in tavola, perché che la riforma Fornero sia una riforma rigida è una balla, e le spiego perché. Per quanto riguarda l'anzianità, l'età pensionabile richiesta per la pensione di vecchiaia, la Fornero non ha fatto altro che anticipare l'andata a regime anticipandola dal 2018 rispetto al 2024 delle riforme precedenti. Sì. La Fornero ha fatto una cosa invece che è assolutamente meritevole, quella di superare, chiamiamola così, le pensioni di anzianità. Esatto. Si tenga conto che negli ultimi anni, anche durante la crisi, sono andati in pensione di anzianità 1 milione di italiani, calcolo fatto dalla famiglia patriarca Fabrizio e Stefano. Questo fatto è costato 24 miliardi, è costato praticamente 24 miliardi, non alla fiscalità, ma al sistema è costato 24 miliardi. Tenga conto che La Fornero consente di andare in pensione anticipata dall'anzianità, solo che richiede 41 anni se sono donne, esatto. 42 anni di lavoro se sono uomini, e richiedeva una piccola penalizzazione del 2% l'anno, dell'1% poi del 2% l'anno, se la persona aveva meno di 62 anni, cosa che la legge di stabilità ha abolito fino al 2017. Quindi in sostanza non c'è più nemmeno questa penalizzazione. Faccio notare, quella dell'età, restano gli anni di contributi, quella dell'età non c'è. Restano gli anni di contribuzione, tanto che se lei vede i dati, io posso anche mandarglieli, dal 2009 al 2015, i primi mesi del 2015, per l'anzianità, l'età effettiva di pensionamento, non quella legale, esatto, è aumentata meno di 12 mesi. Esattamente. Qui vuol dire che la gente ha sofferto, diciamo, dal 2009 al 2015 l'onere di lavorare neanche un anno in più. E dica qual è ancora oggi l'età effettiva di pensionamento? Adesso è meno di 60 anni, esatto. 59, no, questo anni. È molto importante ricordarlo a chi ci ascolta. Cioè... Sì, ma io guardo, le mando i dati dell'INPS, ma sono dati ovviamente che nessuno mette in giro, perché... esatto. Ma oggi l'età effettiva di pensionamento è aumentata per la vecchiaia. Sì. Perché è aumentata per la vecchiaia? Perché le donne che andavano in pensione 5 anni prima degli uomini, a marce forzate, sono state portate a 65 anni, l'età degli uomini. Esatto. Quindi l'età di vecchiaia mediamente è aumentata di parecchio. Ma le regole oggi dell'anzianità consentono ancora di andare in pensione con meno di 60 anni. Detto questo, io voglio far notare anche un'altra cosa, che nella proposta Damiano, se lei fa i conti, 62 più 35, che sono i requisiti minimi per andare in pensione, fa 97. Sì. E miracolosamente 97 è la quota, esatto, la quota magica che Damiano, quando era ministro del lavoro, aveva individuato nella sua riforma. Nel senso che per le pensioni d'anzianità occorreva fare 97, sommando il requisito anagrafico e il requisito contributivo. L'altra cosa che va detto è che nel contributivo la pensione non è bassa perché è il contributivo che mortifica la pensione. Se i giovani non hanno una pensione adeguata è perché non hanno un lavoro adeguato. Perché il sistema contributivo, io per esempio le posso dire, sono andato in pensione con 46 anni di versamenti. Il sistema contributivo me ne ha contati solo 40. Se mi devono fare il ricalcolo, io faccio parte di una situazione molto marginale, no, del lavoro, ma se mi devono fare il ricalcolo con il retributivo, io ci guadagno. No, questo è anche opportuno richiamarlo, perché questa è una classica obiezione di chi è contrario al ricalcolo del contributivo, dicendo perché c'è gente che col contributivo ha perso rispetto al retributivo. Verissimo, stiamo parlando di una percentuale risicata rispetto al totale della platea degli assegni retributivi. Che sono in pagamento, si deve alla lunga continuità, magari nel proprio percorso professionale, di retribuzioni elevate non concentrate negli ultimi 2-3 anni, e quindi rispetto a contributi versati per una lunga parte della propria vita professionale molto elevate. In quel caso questa minoranza sicuramente ci perde col contributivo rispetto al retributivo, corretto Cazzola? Vivo. Esatto. Allora, detto tutto questo, secondo lei come immaginiamo questo intervento, visto che oramai è ufficiale? Cioè, l'aggravio si determinerà, e a questo punto come si affronta l'aggravio? Però la risposta, la mia opinione, sì. O questi sono matti o la riforma Fornero la lascerò così. Però oramai l'hanno detto che la toccano, quindi la toccherà. Insomma, questi hanno 30 miliardi di clausole di salvaguardia da disinnescare. Però. Si permettono anche, io penso che io so, per esempio, che all'INPS stanno studiando un meccanismo. Sì. Se vuole glielo dico anche. Ce lo dice tra 60 secondi, prima abbiamo l'informazione sulle strade e poi vediamo il meccanismo INPS Boeri, per capirci. La la versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta a parlare dell'ipotesi ufficiale da oggi del governo che annuncia di tornare a prepensionare, cioè modificare la riforma della legge Fornero. Alcune risposte ai vostri sms. Giuseppe Laverone dice no, voi state cambiando le carte in tavola. Damiano propone 107 come somma. No, Damiano propone 62 anni come requisito anagrafico e 35 di contributi, quindi 97. No, si figuri se mi permetto di cambiare le carte in tavola, 97, quindi questa è la somma dei due requisiti. Poi c'è una raffica di opinioni vostre che dice paghino i politici, paghino gli imbroglioni, i ladri di Stato, eccetera eccetera. D'accordo, capisco la rabbia, ma questo non identifica coperture, scusatemi, perché le coperture bisogna che siano chiare e precise. Poi c'è chi propone di applicare il contributivo retroattivo sopra alcuni tetti, c'è chi dice 3.500, c'è chi dice 4.000 massimo, eccetera eccetera. Questo per esempio significa individuare concretamente delle modalità, stando molto attenti, perché si recupera un po', ma non è detto che si recuperi affatto quello che poi si aggrava tornando a smontare i requisiti di anzianità della legge Fornero. Io sentirei, prima di tornare a Giuliano Cazzola che ci deve spiegare che cosa pensano all'INPS con Boeri, anche rapidamente qualche telefonata così gliela facciamo commentare. Comincerei con Valerio da Bologna. Valerio, sei favorevole? Eccomi qua, caro Giannino, grazie di avermi qui chiamato. Volevo semplicemente porre una questione che non viene mai posta. È vero, questa cosa qui ci fa tornare indietro, c'è un problema di coperture, la domanda chi paga è correttissima. La domanda di Valerio, che oggi ha 62 anni, che ha già lavorato 40 anni, che è stato ragazzo come i ragazzi di oggi, ha lavorato nei bar come i ragazzi di oggi, sì, ha lavorato in nero come i ragazzi di oggi, eccetera, eccetera, dice: ma tutto quello che a me hanno raccontato in questi 40 anni, e cosa fa? È scaduto? Cioè, voglio dire, parliamo di ridurre le pensioni di 3.000 euro lordi quando c'è Gamberale che ne prende 90.000 al mese, o Amato che ne prende 25? Cioè, un po' di serietà da parte dei politici, non dico dei tecnici, perché il discorso che fai tu non fa una grinza, anzi ti devo ringraziare perché sei una delle poche menti lucide che sentono parlare in televisione. Ma però credo sia corretto a tutti i livelli porre anche questa questione, perché anche Cazzola, che è una gran mente lucida pure lui, non può fare sempre i conti solo sul dopo, solo su chi paga. Ragazzi, a noi ci hanno preso per il culo, scusate il termine, anni. Allora Valerio, tu dici X volte sono cambiate le carte in tavola rispetto al mio orizzonte di vita, adesso basta, la faccio io la sintesi, però tu dai voce a chi dice: oh, io sono oramai prossimo 62 anni, un mucchio di decenni di contributi, non è che potete ricambiare di nuovo. Stavolta vogliono ricambiare per venire incontro a te, però, Valerio. Comunque, ok, Francesco da Perugia, come la pensa? Io la penso come lei, e in particolare dico che se nella vita contributiva chi va in pensione ha pagato equamente per avere la pensione, è giusto che la prenda. Chi invece non ha pagato, è giusto che venga riqualificata e deve prendere quello che gli spetta. Perché faccio un esempio: quanti nell'ambito militare arrivano colonnelli e inspiegabilmente vanno in pensione da generali? No, ma non è solo questo. Come spiegato nelle uscite bisettimanali che trovate sul sito dell'INPS, le pensioni della difesa, insieme a quelle degli elettrici, dei posttelegrafonici, dei dirigenti e così via, sono in particolare quelle su cui si addensano i multipli più elevati rispetto ai contributi versati. Il che, ripeto, non significa demonizzare chi ha quelle pensioni. È l'ultimo dei miei pensieri. Però, naturalmente, è un problema di equità, pretende che uno queste cose le sappia, poi ragiona se intervenire come e per quali multipli, però che le sappia. Allora sentiamo ancora Andrea da Treviso. Andrea, prego. Sì, grazie Radio 24. Giannino, sì. Voglio dire che siamo andati in piazza a raccogliere il firme perché questa riforma venga fatta prima possibile, e Renzi dovrebbe farla prima possibile, perché è la più grande riforma che ha fatto nel suo mandato elettorale. E vogliamo dire che i soldi ci sono, e contiamoci barzellette, qua ci sono state fatte delle porcate per anni delle parti sociali, della politica, e adesso i costi vanno a essere scaricati su chi ha lavorato, e vogliono addirittura portargli via l'ultima parte della vita, prima di andare quel quindi, quindi Andrea, sintesi mia, beh, non prenderci per i fondelli, smontiamo la Fornero, i soldi ci sono, trovateli. Ho capito, bisogna vedere dove però, perché poi alla fine il problema di chi paga c'è. Allora Cazzola, all'INPS come la pensano? Ci siamo fermati lì. Ma guardi, io so che all'INPS è allo studio un meccanismo di questo genere, cioè diciamo le pensioni di oggi sono tutte pensioni miste, no? Sì. Nel senso che una parte retributiva e una parte contributiva, ovviamente quella contributiva è molto modesta. Allora la contributiva si disciplina da sé, nel senso che il suo calcolo lo si fa in base a dei coefficienti che sono ragguagliati all'età. I medesimi coefficienti verrebbero estesi anche alla parte retributiva. Uh-huh. E quale sarebbe l'operazione? Fissando diciamo, il coefficiente previsto ai 66 anni, uh-huh, quello della vecchiaia. Qual è la vecchiaia? Si divide il coefficiente previsto per esempio ai 62, quindi per quello centrale, per quello dei 66, viene fuori uno 0, che è una percentuale di riduzione, però cosa fa questa percentuale? Questa percentuale non è l'8% di Damiano, questa percentuale è il 20, 25, 30%. È esattamente quello a cui Damiano mi ha detto no. Esattamente quello a cui, perché la questione sia in equilibrio, devo fare un'operazione di questo genere. Allora io credo che sia una cosa folle mandare in pensione uno che è, poi bisogna considerare anche gli scenari demografici che abbiamo davanti. Appunto. Cioè capisci il tempo in cui si prenderà in più la pensione, no? Mm-hmm. Che si parla di anni nei prossimi decenni, no? E mandare in pensione con un taglio robusto oggi una persona che può ancora lavorare, un conto chi perde il lavoro, un conto chi a una certa età non ha più un conto, insomma, ma una persona che può ancora andare a lavorare, che sceglie lui di andare in pensione con un robusto taglio a 62 anni, magari mettendolo in condizione a 80, può essere un miserabile, perché ovviamente a 80 non è che può più guardarsi attorno, non è che può più fare un secondo lavoro, non è che può più fare dei ciappini come si dice alle mie parti, è uno che ha bisogno di assistenza e con una pensione tagliata per tutta la vita, per tutta la vita residua. Io credo che sia una cosa ridicola. Poi anche qui adesso cosa diranno? Diranno che bisogna tagliare le pensioni più alte. Ma le pensioni più alte appartengono ad una quota di popolazione molto molto modesta, molto limitata, per cui non c'è, per forza di cose, se si vogliono fare dei risparmi robusti nella previdenza bisogna sparare nel mucchio, non si possono fare le decimazioni, purtroppo sparare nel mucchio, altrimenti lei si ricorda quando la Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale ha bocciato un contributo di solidarietà inserito mi pare dal governo Berlusconi, esatto, sì. Hanno tirato fuori qualche decina di milioni. Sì, esattamente. Allora è facile dire il giorno in cui noi smantellassimo la riforma Fornero e che cominciasse a ripartire lo spread e che quindi cominciassimo a pagare di più come collettività di tassi di interesse sul debito pubblico, e io vado a cercare Poletti, vado a cercare Damiano so. E dico che è colpa loro. Allora io ho anche l'obbligo di dire a chi è in ascolto, perché vediamolo, queste sono le ipotesi che matureranno, ci sarà un dibattito che vedrete, prenderà tutta l'estate, perché la promessa è quella di fare una legge di stabilità. Da una parte Padoan, ieri a Festa dell'Economia, ha detto: per me i diritti acquisiti sulla pensione sono relativi solo ai contributi versati, quindi Padoan mette un freno a nome del tesoro, e quindi questo può farci immaginare che la pensi un po' come ragionano all'INPS con Boeri. Dall'altra Poletti parla di staffetta generazionale, quindi dice no, perché c'è un fine aggiuntivo che giustifica risorse aggiuntive, in deficit per capirci bene, in deficit. Questo sarà il pilastro su cui girerà il dibattito, avrete capito come la penso io, ma conta poco. Io credo che la stragrande maggioranza degli italiani la sentano e la vivano bene questa cosa, ma ricordatevi la mia domanda, ditemi chi paga, perché i giovani basta massacrarli. Continuate con Radio 24, grazie a Giuliano Cazzola, appuntamento come a domani.